sia sbagliata, forse la verità. Errore di gioventù, anche il cielo al tramonto impara a sanguinare. Cuscino d'aria tra te e il mondo, arma e bandiera, ingegno del falso, dimostrare e mentire, vuoto delirio rassicurante che tiene in vita ogni residua diversità dalla cieca. Mai scoperto che il suono si propaga anche nel vuoto, se quel che dici è banale. Che burla sollazzante, animale parlante, il più solo e il più lontano. Sopraffazione. Luce bianca al neon mette a nudo discorsi, rendendoli taglienti. Parlare forte, tutti troppo forte, ma non è certo colpa nostra. Deve essere questa luce a renderci così agguerriti, determinati a prevalere sulle cazzare degli altri. Non possiamo liberarci della nostra natura se questa è mai esistita. E allora lotta, sgomita, picchia come puoi, senza sapere mai perché.